aquí a la vuelta de la esquina. Son muchas ferias con... 20h. Te non ricordo perché sono nato. Per far piacere a mamma forse un parto programmato. Ma do che paranoia è meglio non pensarci. In fondo sono in ballo e dico bello essere qui. Io ci ripenso subito, non mi ritengo stupido. È chiaro come neve che non fossi il benvenuto. Ma do che paranoia ora mi è tutto chiaro. Profilo delineato, profilattico bucato. Però sono fortunato. Ho amici dappertutto e vivo fuori mano. Ho il letto profumato e dormo sul divano. Ho letto il suo diario, so che mi ha tradito. Cornuto, sì, ma molto fortunato. La bici nuova nuova l'ho prestata a un ladro. Lo scooter senza casco me l'hanno sequestrato. Se scioperano i mezzi sono rovinato. Destino ingrato in più, mi chiamo fortunato. Mi chiamo fortunato. Destino ingrato in più, mi chiamo fortunato. Mi chiamo fortunato. A volte non ricordo perché sono nato. Vabbè sono venuto al mondo ma chi mi ha chiamato. Ma do che paranoia in fondo che mi frega. Ci sono e ci rimango su quest'altalena. Già, perché sono fortunato. Ho amici dappertutto e vivo fuori mano. Ho il letto profumato e dormo sul divano. Ho letto il suo diario, so che mi ha tradito. Cornuto, sì, ma molto fortunato. La bici nuova nuova l'ho prestata a un ladro. Lo scooter senza casco me l'hanno sequestrato. Se scioperano i mezzi sono rovinato. Destino ingrato in più, mi chiamo fortunato. Mi chiamo fortunato. Destino ingrato in più, mi chiamo fortunato. Mi chiamo fortunato. Appuntamento al buio in fondo al parco. Sembra impossibile ma un vero schianto. In chat avevo qualche dubbio, ma se la guardo resto senza fiato. E ora con lei passeggio mano nella mano, lungo un magnifico viale alberato. Gli uccelli che cantano a festa, mentre disegnano la mia maglietta. Ma vai! Sono fortunato, ho amici dappertutto e vivo fuori mano. Ho letto profumato e dormo sul divano. Ho letto il suo diario, so che mi ha tradito. Cornuto, sì, ma molto fortunato. La bici nuova nuova l'ho prestata a un ladro. Lo scooter senza casco me l'hanno sequestrato. Se scioperano i mezzi sono rovinato. Destino ingrato in più, mi chiamo fortunato. Mi chiamo fortunato. Destino ingrato in più, mi chiamo fortunato. Buonasera cari amici della Tela Sonora, è venerdì e sono le 20.02, siete sintonizzati su 101.9 FM e questa sera sono in radio, abbiamo un ospite, Angiolo Rosselli, ciao Angiolo. Buonasera. E Paola Grauso ovviamente in regia, grazie Paola. Buonasera. Avete ascoltato Cristiano Romano? Sì, il pezzo Fortunato, che è anche il nome del titolo del suo album. Ringraziamo Cristiano che ormai è diventato amico della Tela Sonora. La sua musica a partire da oggi sarà vi terrà compagnia durante le nostre trasmissioni. Questa sera tre ospiti, quindi andiamo come al solito veloci, li presentiamo. Adele Desideri, Il pudore del Gelsomini, che è una raccolta inedita scritta pressappoco tra l'agosto 2005 fino all'estate 2007. Una presentazione di Stefano Massari con il suo nuovo libro Serie del Ritorno, introdotto da Milo De Angelis. Vi leggerò la presentazione perché veramente ne vale la pena. E poi termineremo con Paolo Gatoni, che ha scritto parecchie cose, ma noi lo conosciamo grazie a Edizioni Fara, Fara Edizioni Alessandro Ramberti. Benissimo, io direi, dopo questa carrellata velocissima, come al solito vi ricordo, la Tela Sonora è un momento dedicato alla parola, alla poesia, ma anche al suono, alla musica, perché pensiamo che la parola sia non soltanto una questione di lettere e quindi di consonanti vocali una dietro l'altra, ma è proprio una musicalità. E il motivo della radio è nato grazie a Anna Maria Farabi, che ricordo con piacere, con amore, e grazie a questa idea che lei ha avuto siamo in contatto con gli scrittori, i poeti italiani, non solo, ma soprattutto italiani che vivono in Italia e sparsi all'estero, in giro per il mondo, e abbiamo deciso di dare voce a loro, perché sono loro i veri protagonisti, noi siamo soltanto un tramite, E quindi la tela sonora è una tela che si sta allargando, si sta ampliando, funziona un po' da cassa di risonanza, è un modo come un altro per accogliere, accudire, nello stesso tempo dare importanza alla parola, continuare a tracciare questo solco, il solco ideato da Anna Maria, e poi chissà questo viaggio dove ci porterà. Ricordiamoci che ciò che conta non è mai l'obiettivo finale, l'obiettivo è semplicemente un pretesto per vivere il nostro viaggio. Il nostro viaggio deve essere ricco, denso di emozioni, e la tela sonora speriamo ve le dia. Allora, prima di chiamare Adele, che è la nostra prima ospite, vi lanciamo un pochino di musica. Non so cosa il pezzo che abbia scelto Paola. Dovete sapere che Paola è veramente molto, molto brava, si è avvicinata alla radio quasi per scherzo, quasi per gioco, e grazie a lei la tela sonora sta andando avanti, perché se non ci fosse lei avremmo già dovuto chiudere i battenti. Quindi lascio la parola a Paola e mi avvicino alla regia per chiamare Adele. Paola, vai. Allora, ascoltiamo adesso il gruppo E3 con Rumori Decadenti. Ammiro il mostro temerario, coraggio, sentimenti e pensieri convulsi, senza sforzarsi di capire, resistendo nel dubbio, raggiungi in fretta fine. È una questione di ordini, di precedenza, punti persi ad un incrocio e recuperati dopo 12 meno 4 ore di totale assurdità. Il segmento che anticipa il punto, realtà platonica, insieme di cose ed idee, costruire crescendo. Le mie fondamenta solo precarietà, sulle quali edifico le mie certezze. La tua sicurezza e il non so se i risultati cambino. Di certo mutano gli stati d'animo. A piedi nudi nel fango, i tuoi piedi nudi. Le gocce come schegge sulle cosce, sbiancate dalla pioggia. Il fumo uccide a caratteri cubitali sui pacchetti di sigarette stropicciati dalla dipendenza. Spezzetti con cura la bustina dello zucchero di canna. Ehi, granelli, ehi, polpastrelli s'uniscono. E i miei soggiacciano inquieti le righe già citate, silenti. Mentre le mosche siedono comodamente sopra, la testa svuotata a cacciare tutte le tossine. In un colpo di tosse, lasciandole volte zare, in attesa che qualcun altro le incorpori. Contraendo il morbo si diffondono le epidemie non dovute a carestie. Benissimo, allora, cari amici della Della Sonora, benvenuti nuovamente su 101.9. Abbiamo la prima ospite Adele Desideri in linea. Ciao Adele. Adele? Allo? Mi senti? Adele? Ai, l'abbiamo persa. Forse è caduta la linea. Sì, ok, allora rimettiamo un po' di musica e riproviamo a contattare in nuova Adele. Grazie, scusate. Vai Paolo con la musica. Sotto le nuvole come due fragole, diventi rossa se ti dico baciami. Copri le rughe del tuo bel visino con un cappellino. Sotto le nuvole come due fragole, diventi rossa se ti dico amore. Sei come il sole che ti sta a guardare, che d'invidia muore. Io vorrei stringerti tra le mie foglie, poi rotolare insieme e poi giocare. Farti carezze e farti notare che ho una voglia di fragola sotto il cuore. Non c'è più tempo per restare fragole, fatti coraggio, omaggio qui col sole. Tieniti stretta, stretta, non temere, ce ne andremo insieme. Vorrei stringerti tra le mie foglie, poi rotolare insieme e poi giocare. farti carezze e farti notare che ho una voglia di fragola sotto il cuore. Io vorrei viverti sotto le stelle, fermare il tempo per non maturare, fare l'amore all'ombra delle rose, sentirti forte senza farsi male. Se si potesse non essere fragole e liberarsi di questo sapore, vivremmo un sogno, quello di durare più di una stagione. E poi sorridere, capirne il senso e sorridere, e dondolare tra la terra e il cielo come due aquiloni. Guardarsi negli occhi, promettersi il mare, abbandonarsi al suono della voce, baciami ancora, lasciami sognare. Benissimo, ecco, forse adesso ci siamo. Adele, sei con noi? Adele? Adele? Sì? Ciao, come stai? Ciao Gabriele, bene, grazie. Bene, tu, senti, voi, benissimo. Bene. Senti, allora, ho appena detto ai nostri amici ascoltatori che oggi parleremo del libro Il pudore dei gelsomini. Sì. Che è questa raccolta inedita scritta tra l'agosto 2005 e l'estate 2007. Quindi tu mi hai mandato alcuni testi, io ti inviterei allora, se vuoi, a raccontarci un attimino la tua esperienza e a leggere alcuni testi e poi dire un attimino il tuo fare, perché come sai la tela sonora invita i poeti e li fa parlare, che siamo interessati nella loro voce. A questa raccolta parlerei soprattutto della prima sezione, è una sezione che racconta un po' il rapporto amoroso, e ne vede però, come dire, i limiti della gelosia, del possesso, insomma, come se amare debba comunque pagare il prezzo del compromesso e della non autenticità. Poi c'è sempre la riflessione sulla condizione emotiva della donna, che è un vero e proprio leitmotiv della mia poeta, una donna che io sento sempre in bilico tra disillusioni e speranze, disillusioni del passato e speranze nel futuro. La raccolta si chiude, in questa sezione si chiude con una poesia dedicata a mio padre, che come tu sai oggi è molto malato e anziano. Insomma, c'è ancora il pessimismo dei miei primi due libri di poesia, Salomè, Non tocco gli ippogrifi. Nei primi due libri il pessimismo trovava note angosciose, anche pesanti, qui invece ci sono sfumature più malinconiche. E poi la quarta sezione, anche interessante, una riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'assoluto, l'uomo e l'eternità. Ho lavorato molto a questa raccolta ancora inedita, avrò riscritto le poesie migliaia di volte, molte di queste sono già apparse in riviste, antologie, anche su plaquette. Bene, senti, perché non ci leggi subito una poesia? Sì, dunque dalla prima sezione leggo Non ti aspetto. Va bene, sì. Non ti aspetto nella sediata Itaca, non ti cerco nell'assolata Tebe, più vicino con le dita sfiora il vello scuro, come l'infante tocca e conosce, così le tue mani segnano i colori dell'estate, nel contrappunto vocale che brucia e corrode, accostati e dimmi se quel che hai perso torna e serba le nuove stagioni, come il seme che muore per il frutto. E poi leggerei la poesia L'innominata, dedicata alla moglie di Lot, che sì, nel libro della Genesi. Molto bello, infatti. Ti inviterei anche a spiegare questa storia, sì, molto bella, che è appunto, sì, l'attaccamento a ciò che era stato, che non deve più essere. Sì. La moglie di Lot è innominata nel libro della Genesi, si volta indietro per osservare la città di Sodoma, empie e peccatrice, incenerita dall'ira di Yahweh. Lei sa che il Dio di Abramo le ha proibito di girarsi e di assistere anche solo guardando quel sacrificio umano, però appunto l'attaccamento a ciò che è stato e la curiosità sono nella donna spesso più forti poi della volontà, e quindi per punizione viene tramutata in una statua di sale. Questa poesia però è proprio una poesia alla donna. L'innominata. Non fermarti, non voltarti, scuoti il sale dalle spalle, guarda avanti, gioca un soldo sulla tua sorte, spengi il lume, danza al buio, non temere, spendi tutte le tue grazie, vivi l'attimo più esteso, pensa a quando capirai nella cenere del vento che era solo un lampo, un tradimento. E poi, se vuoi, concludo questa prima sezione con la poesia dedicata a mio padre. Allora, io invece ti inviterei, prima di leggere la poesia di tuo padre, di tornare un attimo su questa l'innominata, perché comunque le ultime tre righe, diciamo l'ultimo verso della poesia, che cosa volevi dire? Perché è molto bello, tu a un certo punto dici: spendi tutte le tue grazie e vivi l'attimo più esteso. Pensa quando capirai che era solo un lampo, un tradimento. Cosa vuoi dire? Voglio dire che la donna se la gioca un po' la vita, anche con il sex appeal, anche con la bellezza, anche col coraggio di viversi, di buttarsi nelle questioni appunto della vita. Uh-huh. Poi però, insomma, certo è un gioco, perché prima non ci può pensare, no? Uh-huh. Visto però da parte di una donna cinquantenne come sono io, viene da dire appunto: pensa che poi dopo capirai, quando ci sarà più cenere, solo più cenere e vento, che tutto forse è stato un lampo, è stato un grande tradimento. Ecco, okay. Questo. Va bene. Sì, ok, andiamo avanti con la lettura della poesia allora di papà. Di mio padre. Sì. A te padre, il sole calava, il mare spietato montava. Io giovinetta guardavo e pregavo, pensavo a quell'uomo incognito, amato da sempre, e forse scorgevo tra i sali del vento, nel volto di bronzo, nel braccio scolpito, il tremulo passo di questi tuoi giorni. Vuoi commentare anche questa poesia? Non ho molto da dire, penso che la poesia dica da sola. Un padre anziano che non ha più la possibilità di movimento, e ricordo invece, l'ho scritta appunto recentemente questa poesia, di quando da ragazzina andavamo in barca al mare della Sardegna. C'era questo cielo splendido, questo mare meraviglioso, non c'erano altre barche perché negli anni 60 non usava andare in Sardegna, e così a me sembrava l'uomo più forte del mondo, insomma. Ho capito, come tutti i papà del resto. Sono gli uomini più forti per le loro figlie. Senti, andiamo avanti allora, perché abbiamo incominciato già toccando determinati argomenti che insomma non sono proprio leggeri, non sono da poco, e fanno parte un po' di tutti noi, perché chi non è stato ragazzo, chi non ha avuto un papà, e chi non ha avuto un amore o comunque si è trovato in difficoltà. Mentre hai selezionato altri testi, sì. Di una, tu la chiami la quarta e l'ultima sezione, sono sì, fuggiti sì. Anche gli dèi, e questo è molto già... Sono fuggiti anche gli dèi. Ecco, anche gli dèi non ce l'hanno più fatta. No, non reggono più questa società. Infatti, allora dai, raccontaci un attimino il perché del titolo comunque di questa raccolta, di questa sezione, e che cosa vuoi comunicare con questa fuga. Ma il titolo è tratto da una poesia, Cementi surreali. Io penso che... riflettevo appunto sulla società umana, e mi pare una società ormai sempre più cinica, indifferente, aggressiva, ingorda, anche desolata, e mi sembra che non ci siano più occhi per vedere, non so, la luce, l'amore, i colori, i suoni della natura, ma anche, io ho fede, il rapporto creaturale con Dio. Uh-huh. E quindi appunto sono fuggiti anche gli dèi, però insomma a me ha influenzato sempre moltissimo tuo padre Turoldo, il frate servita, frate poeta, non teologo, non amava i teologi, aveva questo rapporto con di denuncia del sociale, eppure comunque di fede, e quindi insomma una fede anche molto dialettica e molto sofferta, nella quale ogni tanto sembra che Dio fugga inorridito. D'altronde c'è tutta la teologia protestante cattolica dopo Auschwitz, si chiede se Dio c'è ancora, se Dio piange, cosa pensa, cosa sente. Okay. O sono questi i temi che mi hanno fatto scrivere questa ultima sezione. Ok, senti, vuoi leggere Cementi surreali? Sì, devo forse spiegare un momento che è ispirata al quarto Carme del servo di Yahweh, scritta dal profeta Isaia. È uno, secondo me, uno dei passi lirici più belli della Bibbia, oso dire anche della letteratura antica, che è il servo di Yahweh, di cui si parla in questo quarto Carme, un personaggio molto misterioso che il popolo ebreo attende perché deve venirlo a liberare dall'esilio babilonese, dal despota Nabucodonosor. Però questo personaggio non giungerà in veste di uomo di potere. Isaia dice esplicitamente: non avrà né apparenza né bellezza, sarà maltrattato e subirà il calvario. Questo Carme è stato scritto nel 600 a.C. ovviamente nella rilettura cristiana prefigura la venuta di Cristo. E io, ispirandomi a questo verso, non avrà apparenza né bellezza, ho scritto una poesia in fondo di denuncia della corruzione del sociale, insomma. D'accordo, la leggiamo. Cementi surreali. Le lanterne torbide ancheggiano nella casa del gobbo. La luna è una sfera di ghiaccio, l'alba ha scelto altri cieli, mentre il sole è ormai un lucignolo smarrito. Il gallo non canta più, le scimmie, larve si agitano nell'oscurità. Qualche avvoltoio fa la guardia, le gatte conoscono solo i tempi del calore. Sono fuggiti anche gli dèi, non c'è un fiore che sia spuntato per amore, il passo è incerto, respiri tra le ombre. Le tovaglie un tempo erano candide, i vecchi raccontavano le storie, i bambini sapevano piangere e ridere, si sentiva nelle strade il battito dei cuori. Ora i morti non risorgono, i vivi non camminano sulle acque, i crocefissi non hanno sangue per i sacrifici. Quando sorgerà non avrà apparenza né bellezza, sarà il respiro che tutto salverà. Ok, allora direi a questo punto, visto che abbiamo dato un certo cammino a questa lettura delle poesie, di concludere con l'ultima che tu hai preparato, che sì, è un testamento, no? Conclude, sì, quindi, è un testamento reale, tra l'altro questa poesia ha vinto un premio proprio come inedito secco, un premio a Romano di Lombardia nel 2007. Ed è una poesia sulla quale ho lavorato molto poco, perché l'ho scritta di getto su un foglietto una sera in cui non ero precisamente su di morale, e poi ho tentato di cambiarla, ma mi pare proprio che sia così, ecco, non si può modificare. Quindi la leggo. Testamento. Sarò concubina, leggiadra e disperata, sarò farfalla di una notte, cicala delle torride estati, luna calante, giovinetta del ballo assassino. Non avrò nelle mani le perle dei giorni trascorsi, non sarò lanterna, faro, fortezza. Sarò pioggerellina di marzo, girasole distratto, mantide religiosa. Di Edipo seguirò la sorte, mi caverò gli occhi che non hanno veduto quei secondi tra l'utero e la fossa che marchiano come pecora al macello. Lascerò tre soli, tra i loro raggi qualcuno potrà scorgere un volto amoroso celato nel decomposto ghigno. Perché hai scritto un testamento? Che cosa vuoi lasciare in questo testamento? Beh, questo era un testamento spirituale. Mio figlio mi dice spesso che gli ho insegnato la dignità, e mi dice sempre: mamma, la dignità tu me l'hai insegnata, vai allo specchio, guardati negli occhi, guarda quello che hai scritto e quello che mi hai insegnato. E qui c'è, forse anche con delle metafore a volte non chiarissime, sicuramente disperate, perché insomma, è una poesia che non ha tantissime speranze, però ci sono tre soli, c'è comunque un volto amoroso, poi c'è l'ombra, certo l'ombra ce l'abbiamo tutti, che è cela, e quindi c'è anche un ghigno sicuramente, però c'è anche il discorso del sapere riconoscere il proprio destino, e a volte non ci si riesce, insomma. Quindi la figura di Edipo è un altro, è un mito che mi ha segnato sempre profondamente. Insomma, ho fatto studi classici e tra le tante tragedie greche che ho studiato e amato, quella di Edipo è stata quella che ho sentito subito più vicina, soprattutto perché Edipo si acceca, perché non ha capito tante cose di sé, insomma. Ok, senti, direi che sei stata molto, molto, cioè io starei qua delle ore a parlare con te, però lo sai che non possiamo permettercelo, quindi sì. Io direi di fare così, intanto di ringraziarti, e poi che non sia proprio un addio, nel senso che tu sai che noi abbiamo un blog, la radio comunque, questa tela cresce, quindi ogni volta che senti la necessità di scrivere, come abbiamo fatto in questi mesi, perché comunque la nostra corrispondenza ormai va avanti, sì, da un po', ecco, quando hai voglia, brava, quando hai voglia di scrivere qualcosa, sappi che io poi lo posso pubblicare sul blog e spesso durante le puntate ne parlo ai nostri amici radioascoltatori, quindi qualsiasi messaggio che tu voglia passare, perché è talmente tale la profondità che varrebbe veramente la pena scriverci anche dei pezzi, delle recensioni, quindi tu fallo, veramente sentiti libera, e poi noi ci lavoriamo sopra e lo diamo in pasto. Magari qualche inedito a cui sto lavorando. Va bene, grazie Adele. Intanto io ti ringrazio e ringrazio anche tutti i tuoi collaboratori. Perfetto. E la trasmissione, la tela sonora, insomma. Grazie a te. Ormai annuale, no? Mi piace sì. Molto. Va bene, ok, grazie mille. A tutti. Ciao, grazie Adele, ciao. Benissimo, allora come avete sentito, comunque la speranza di questi tre soli e poi la ricerca del nostro destino, perché non sempre è chiaro il nostro destino, ma sta anche un po' a noi cercare la strada, nel senso che quest'ombra l'abbiamo tutti, ma abbiamo anche la luce, quindi diamo più spessore alla luce e l'ombra forse viene in qualche modo nascosta. Allora, cari amici, che vi devo dire? Che adesso direi che è il momento di chiamare Stefano Massari. Stefano Massari avevamo provato a chiamarlo un po' di tempo fa, non ci siamo riusciti perché c'erano stati dei problemi. Stefano è un uomo che scrive, insomma, protagonista, una rivista, Land, un uomo di un certo spessore. Mi ha mandato il suo libro e quindi direi che, se ho ancora tempo, leggerei la presentazione di Milo De Angelis. E dopo la pubblicità magari, perché adesso mi fanno cenno che forse. Espace DI, prochaine émission en direct samedi 30 mai avec comme artiste invité Benson. Espace DI. Benson, Espace DI, samedi 30 mai, 21h45, sur Radio Alma. Pour assister gratuitement, inscription sur radioalma.be. Vous êtes ressortissant italien ? Vendredi 5 et samedi 6 juin, vous serez appelé à voter pour l'élection des représentants italiens au Parlement européen. Le vote aura lieu dans les bureaux installés dans les consulats italiens en Belgique. Le ministère de l'Intérieur italien vous enverra votre certificat électoral. Si vous ne l'avez pas reçu pour le 2 juin au plus tard, contactez votre consulat. Bene, cari amici della tela, avete ascoltato questo incipit delle votazioni, delle elezioni, quindi andate a votare e poi partecipate al concerto di Espace DI. Vi leggo brevemente l'introduzione a questa presentazione di Milo De Angelis al libro di Stefano Massari, il libro edito da Collana, La vita felice, e il motivo per cui bisogna leggerlo. Bisogna leggere questi versi, hanno un'urgenza mortale, hanno l'attenzione di chi compie un atto decisivo, un atto oscuro e antico. Bisogna credere, letteralmente, a ognuna di queste parole. Portano con sé un urlo, ce l'hanno addosso, sono infestate dall'urlo dei morti, perché questo è un libro scritto vicino alla morte. Con improvvise rinascite, barlumi, terre felici. La morte sembra dettarlo a viva voce. L'addio è incessante, la parola è intempestosa. Una minaccia ignota la insegue, la spinge nelle vie buie del mondo e della mente, come in certe pagine russe dove l'assoluto si sfiora nel grido e nella bestemmia. Qui tutto è percussivo, febbrile, incessante, forsennato. ci trascina verso una diga, ci preme contro il cemento, ci fa sentire tutta la forza di una tragedia imminente. Tra corpo e cosmo, tra dono e maledizione, tra il chiuso delle pareti e la ferita del mondo, siamo scaraventati nelle pagine di questo libro, nelle parole di un'anima generosa e braccata. Milo De Angelis. Allora, ringraziamo Milo, che è comunque curatore del libro, della collana. E adesso, dopo un po' di musica, ci connettiamo con Stefano e chiediamo a lui perché, magari ci chiediamo a Stefano di leggerci qualche poesia. Sei pronta, Paola? Cosa ci proponi? Propongo Cristian Romano. Va bene, ok, amici, a fra poco, state in linea. Rotta di collisione, niente ormai mi può fermare. Ho un bisogno matto d'amore che mi morde e mi fa male. Le capelli come il mare, occhi come spighe di grano. Ecco, mi confonde di nuovo quando passa l'uragano. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare. Scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare. Scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Sono in rotta di collisione, zona rossa del bersaglio. Tiepido raggio di sole, disarmato dal suo sguardo. Nel mio sogno ricorrente, vento di terre lontane, urlo che taglia la notte, lei una lama, un uragano. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Sono in rotta di collisione, ogni tentativo è vano. Perdo il lume della ragione quando passa l'uragano. È una notte di settembre, dio la luna piena, mando via le stelle per restare solo con lei. Lei che a volte mi confonde, a volte mi sorprende, poi dietro le tende vuole far l'amore con me. Gira con me. Cari amici della Tela Sonora, ecco di nuovo la voce di Gabriella, Paola Grauso e Angiolo invece con noi in radio, e abbiamo Stefano Massari al telefono. Buonasera. Buonasera, che bella voce. Speriamo. Sì, senti, ti sei definito un orso l'altro giorno, non ci credo. Sì, il telefono mi crea qualche disagio di solito. Va bene. Sì. Fai finta di essere in contatto telepatico. Sì. Senti, io ho appena letto la prefazione al tuo bellissimo libro, la collana diretta da Milo De Angelis, e sì, effettivamente le parole utilizzate, insomma, le emozioni sono molto forti. Si parla di morte, perché è un libro veramente che è stato vicino alla morte. Ci vuoi spiegare perché? Poi magari ci leggi alcune poesie? Ma diciamo che, come ha scritto un amico critico, poeta, anche lui qui attivo qui a Bologna, che si chiama Sergio Rodino, anche un caro amico, in realtà l'elemento morte di questo libro, come negli altri due precedenti, è una costante, ma è come un elemento di focalizzazione di tutta una serie di vicende che sono sicuramente personali, ma che trascendono poi questa condizione. D'accordo. Singolare, personale. Cosa intendi? Ecco, infatti, scusa se ti interrompo, cosa intendi per trascendono? Spiega bene. Cioè, nel senso che comunque, come sempre poi dovrebbe essere il risultato finale di una scrittura poetica, quello di uscire dal dialismo, dall'autobiografismo, cercare comunque di lavorare la propria parola affinché la si possa restituire all'altro, all'altro che ha deciso e ha scelto di ascoltare. Ho capito. Questo diciamo che è uno dei compiti più difficili, ma anche più avvincenti. Certo. Dello scrivere, insomma. Scrivere una sfida. Certo. Sì. Senti, allora, vuoi dire due parole di questo libro? È appena uscito? Sì, faccio fatica a dirle perché di solito io non so parlare molto bene. No, invece sai parlare benissimo. No, non so parlare, non so spiegare cos'è che mi succede, cos'è che accade. Diciamo che la cosa di cui sono veramente certo è che è un libro che per tematiche, per fili conduttori, per, anche per figure e per modalità di voce, scrittura, chiude un cerchio nato con il primo libro. Chiude questo trittico, chiude sicuramente una stagione della vita e infatti mi lascia, al contrario dei primi, dei tuoi precedenti, mi ha lasciato in un assoluto silenzio, in un silenzio che non è propedeutico a una prossima vicina scrittura, ma un silenzio che sento molto preciso, molto netto. E spero che sia, che sarà comunque un silenzio fecondo, ma ho una percezione molto precisa di una chiusura, di una stagione della vita che si è chiusa e difatti coincide anche con molte delle mie vicende personali, ultime, esatto, personali, che sì. D'accordo. Non dico che sia un testamento, ma... Guarda, hai usato la parola giusta perché abbiamo appena finito l'intervista con Adele Desideri e la sua ultima poesia era proprio un testamento spirituale. Quindi questa sera parliamo di morte, parliamo di testamento, ma sono poi tutte parole che portano un po' alla vita, perché poi quando muore qualcosa è perché si sta preparando, è già pronto, è un nuovo progetto. Un nuovo cammino, sì. Il viaggio prosegue, continua e magari per strade diverse. Senti. Sì, vengono a mancare probabilmente anche i motivi, le presenze si sperdono, le forze che ti hanno condotto fino a un punto dell'esistenza magari si esauriscono, lasciano il posto a qualcosa che ancora dovrà essere nominato, dovrà essere scoperto, dovrà essere soprattutto vissuto, perché una delle cose che per me è assolutamente centrali è che non ho mai scritto niente, che io non ho mai usato una parola che io prima non avessi vissuto interamente, non mi sarei mai permesso di farlo, insomma. E quindi per me è sempre stato molto importante questa adesione a una autenticità, una verità anche scomoda, anche appunto questo che può apparire un tema della morte, in realtà appunto una morte che è una presenza. Almeno nella mia vicenda personale molto attiva, è stata molto attiva, ha scandito diversi momenti della mia vita e in realtà è diventata una specie di dialogo con una condizione dell'umano che appunto non, arrivato a questo libro si è molto probabilmente esaurito. Ho capito. Sì. Non so cosa succederà. Infatti, è anche bello quello, nel senso che insomma vuol dire che hai dato tutto e adesso si aprono nuove strade. Vuoi leggerci qualcosa? Sì, posso leggervi l'apertura del libro. Sì, mi piace molto, infatti. Che sì, cominciamo dall'inizio, come si dovrebbe fare con i libri di poesia, si leggono all'inizio e alla fine come i racconti. D'accordo. Allora sì, proprio per rimanere poi in questo tema, in realtà questo brano iniziale si collega molto a un me stesso che è quasi all'origine, insomma, che parla a un io che sta molto lontano nel tempo, era quello che si rivolge alla persona che ero quando tutto è cominciato. D'accordo. La morte che dovevi diventare, che dovevi mangiare, che dovevi dividere come odio dal pane, ogni gesto del tuo giorno, ogni giorno del nostro anno, in tutte le nostre case di sentenza e redenzione, dove dovevi ritornare, dove dovevi restare, in posizione di artiglio e convalescenza. La morte che dovevi conservare, che dovevi tossire, paziente, come l'attesa dei laghi, che dovevi pregare in posizione di violenza e comprensione per restituire ai padri corpi di lungo l'arteria femorale, quando mentire era salvare, non avevamo altro. La morte che dovevi guardare, che dovevi preparare, ogni volta come fosse la tua, finalmente, senza un assedio, senza uno sbaglio, senza che un Dio si fingesse tuo figlio. La morte che dovevi cercare, nella parte più stretta del contagio, del commiato tra i nostri corpi di fratelli, quelli a cui tutti hanno mentito. Ecco, questo è il brano iniziale che apre il libro, sì. E diciamo che hai anche stampato, comunque hai deciso una stampa molto particolare per un libro di poesie. Sì, io sono un po' la maledizione di tutti gli editori italiani di poesia. Sì, in realtà anche in questo terzo libro ho deciso di proseguire questo percorso iniziato sin dal primo libro, che era questa posa in opera, diciamo così, della parola sulla pagina, seguendo la forma di un punto, richiamando molto con la massima precisione innanzitutto il ritmo della voce con cui sono nati questi testi, ma anche la disposizione del testo doveva richiamare una sorta di ferita, di taglio, una specie di presenza quasi come se fossero dei nastri. Non riesco a andare a capo nel modo classico, non ho. Sì, qualcuno li definisce prosimetri, sono delle brevi sequenze, tre o quattro versi che riempiono la pagina, e per me ha una fondamentale importanza questa disposizione, perché avendo io anche questa formazione visiva, diciamo così, occupandomi di arti visive, di immagine, ho bisogno che la parola appaia sulla pagina in un certo modo piuttosto che un altro. Direi che quasi si forma, l'immagine della parola si forma anche contemporaneamente alla sua nascita come elemento fonico, elemento ritmico. E quindi per me è proprio importantissima questa presenza, okay, e questa forma che la parola assume sulla pagina, sul corpo e dentro il corpo del libro. Senti, c'è anche una rivista, tu curi una rivista? Sì, siamo diciamo all'ultimo atto di tutta una serie di progettualità che con non so con quale spirito, direi impossibile parlare di santità perché non ce lo possiamo permettere, però abbiamo cercato di, da molti anni a questa parte, io insieme a Giancarlo Sissa, ad Alberto Bertoni e altri amici che man mano negli anni ci hanno accompagnato in varie avventure, di costruire dei punti di riferimento per chi cercasse insomma un rapporto con la parola poetica fondato sul dialogo fra gli autori, fondato sul dialogo, fondato sull'elemento del confronto continuo, dello scambio. Questa rivista poi tra l'altro è a capo di un progetto, è diciamo la punta di un progetto che si voleva molto più articolato. In realtà la rivista poi comprende anche un progetto di rivista in video e una serie di laboratori sulla lettura e sulla scrittura, cioè tutto un progetto piuttosto articolato che adesso è difficile di assumere in poche parole. E siamo arrivati al terzo numero che sta per uscire, perché ho portato proprio ieri le bozze ho consegnato la copia di stampa proprio ieri al Tibor, quindi sta uscendo il terzo numero, però credo che sarà, anzi quasi sicuramente, un'avventura che si interromperà con questo numero, perché le risorse sono veramente poche. Molto. Senti, ecco, allora io ti devo lasciare, però è un arrivederci, perché mi interessa questa rivista, il terzo numero, quindi ti volevo chiedere se a giugno ti potrò chiamare, ti scrivo, ci mettiamo d'accordo e la prossima volta ci parlerai solo della rivista. Benissimo, okay? Nel frattempo ti invierò il numero non appena. Perfetto. Benissimo. Okay. Grazie, sei un tesoro. Mille. Grazie mille. Ciao Stefano, grazie a presto. Ciao. Ecco, cari amici, purtroppo abbiamo dovuto interrompere perché, come voi sapete, abbiamo dei sistemi per contattare i nostri amici poeti e ogni tanto abbiamo dei minuti per telefonare ben precisi. Quindi adesso direi colgo l'occasione per ringraziare del vostro ascolto, mandiamo ancora un po' di musica e chiamiamo il terzo ospite della serata, Paolo Galloni. Non scappate, restate con noi. Grazie Paola. Per mettere la musica, dici anche cosa ci metti. Metterò il gruppo E3. Grazie. Con Amoressia strumentale. Sonora, non siamo riusciti a metterci in contatto con Paolo, comunque vi volevo giusto dire due cose su un libro, il suo primo lavoro di Kin Project, è Il segreto del poeta. Il segreto del poeta è il primo lavoro appunto di questo progetto. E, dunque, ci sono due versioni, una è disponibile in formato digitale, un'altra invece cartacea, una copia cartacea pubblicata dall'editore Fara di Rimini. Ringraziamo quindi Alessandro, ci tenevo a ricordarlo, eccetera. Il libro racconta in prima persona le vicende del giovane poeta Christian, che lascia la città natale per un viaggio avventuroso alla ricerca dei cantori tradizionali, che sono custodi degli antichi carmi dedicati a Tristano e Artù. Il suo cammino incrocia quello di inquietanti personaggi che ordiscono trame che oscuramente si intrecciano con i personaggi delle leggende cantate dai bardi e con i bassorilievi di alcune chiese che sembrano narrare episodi di una medesima storia che coinvolge Artù, Tristano e Giuseppe di Arimatea. Tutti i fidi si riannoderanno in faccia all'oceano nella rocca di Tintagel, ma un retrogusto amaro accompagnerà Christian per tutta la vita. Quindi direi che niente, volevamo parlare di questo romanzo che però è dedicato a un poeta. Purtroppo con Paolo non riusciamo a metterci in contatto, ringraziamo comunque, sarà per la prossima volta, venerdì prossimo, vedremo magari di chiamarlo all'inizio. E ne approfitto per intervistare invece Angiolo che è qua con noi in radio. Senti Angiolo, come mai innanzitutto sei arrivato a Bruxelles? Cosa sei venuto a fare in questi giorni? Lo vuoi dire? Non sei un poeta tu? No, io sono un ingegnere, mi occupo di trasporti, quindi vengo a prendere delle idee. Perché Bruxelles è un fonte di idee? Cos'è, un pozzo? Beh, per noi che stiamo al sud delle Alpi ci sono delle innovazioni, delle cose che vanno avanti, che invece a noi sono ferme. Senti, prima abbiamo parlato con Adele di cemento. Di cemento, beh, forse era una parola utilizzata per così evocare un'emozione, un sentimento particolare, ma con te spesso si è fatto così, si è chiacchierato in radio. Mi ricordo quando avevamo intervistato Luca Riano e avevamo parlato del suo libro. Tu sei un ingegnere, quindi la città, come vedi, sei venuto qua per i trasporti, come vedi la circolazione, come vedi queste persone che al mattino si mettono sul treno, mi dicevi, ci stanno anche un'ora in piedi per arrivare sul luogo di lavoro, perché invece non fare proprio nei treni, chissà, un modo come un altro, una specie di cogliere l'occasione, creare laboratori per le persone, laboratori magari vocali, sonori, per aiutare le persone a passare comunque questo tempo, che è un tempo che ti viene rubato, perché se tu pensi che al mattino già un'ora, la sera un'altra ora, poi stai in piedi, scomodo, comunque sono due ore della tua giornata. Cioè aggiungi le altre che lavori, durante le quali lavori, le altre per dormire, mangiare, insomma, tenere tutto il resto, alla fine non ti avanza più tanto. Queste persone che, come la vedi questa trasportabilità? Beh, in realtà nei treni dove c'è un po' di posto si creano delle abitudini, si creano dei gruppi, si creano dei legami, delle tresche. Io ho vissuto come pendolare da studente da Varese su Milano, e se il treno era sempre lo stesso, cioè quelli che prendono sempre lo stesso treno, i veri pendolari, perché poi ci sono quelli che invece alternano orari diversi, il vero pendolare in realtà sale sempre sulla stessa carrozza, conosce più o meno i suoi vicini, con i quali gioca anche a carte con la cartella sulle ginocchia, o perlomeno ci si scambiano le notizie sui giornali, cioè ci si creano veramente delle comunità. Il problema è dargli spazio, cioè se sei tutti in piedi schiacciati uno contro l'altro, la comunità non è più quella facoltativa e volontaria. Sì, dovremmo mettere invece dei grandi corridoi tipo e danzare, perché a questo punto un'oretta al mattino ti farebbe pure bene muoverti e danzare. Senti, quindi non è poi così facile allora. Beh, il giorno che i treni sono un po' più vasti, un po' più larghi e c'è un po' più di spazio, in cui la gente non è tutta calcata, forse questi fenomeni si rivelano. Siamo in tema di elezioni, voi sapete che Radio Alma non si schiera con nessuno, non esiste la destra, la sinistra, il centro, esiste semplicemente la voglia di vivere, di andare in radio e di, insomma, di invitare i nostri amici a parlare, ma tu sei un uomo politico, comunque sei una persona che gira intorno a questa parola, la politica. Un messaggio alle persone che dovranno andare alle urne prossima settimana che dovranno votare, e votare per qualcosa di speciale, perché se ci crediamo l'Europa è qualcosa di speciale, un sogno, è stato un sogno per i fondatori. Dipende poi da noi cosa ne facciamo di questo sogno, se vogliamo continuare a crederci e farne qualcosa di meraviglioso oppure utilizzarlo per i nostri scopi. Un messaggio a questi cittadini europei, perché sono cittadini italiani che si trovano in Belgio ma sono europei, quale potrebbe essere? Beh, dare indicazioni di voto non mi sembra il caso. No, certo, no, no, che... non dico indicazioni, dico un messaggio. Un messaggio ben chiaro: perché votare, che cosa anche sperare, che cosa poter fare in qualità di cittadino europeo, oltre al votare. Che cos'è il voto? Bisogna pensare che l'Europa non è così lontana, cioè in realtà anche nelle politiche locali, nel quotidiano, nel locale, nel quartiere, nel comune, un'influenza europea c'è, nel senso che l'Europa esiste in quanto struttura burocratica, ma soprattutto esiste come confronto tra paesi diversi, e questo confronto ci dovrebbe portare a guardare chi fa meglio di noi. Bellissimo. E quindi a darci una spinta, perché si vede cose realizzate, come faccio io, venire al nord e vedere che cose si fanno qua vuol dire che prima o dopo le possiamo fare anche noi, non siamo più stupidi degli altri. Perfetto, quindi io credo che questa, giustamente come hai detto prima, non sia un'orientazione ma sia una, evocare una possibilità. Sappiate che il mondo è così perché noi l'abbiamo fatto così, quindi non scappiamo da questa responsabilità, pensiamo che invece comunque una parte di responsabilità è anche nostra. Quindi pensate, riflettete, credeteci, soprattutto perché chi non ha credenze, chi non ha sogni, chi non ha idee, non va avanti, è morto, è già in uno stato quasi di coma, quindi non è vero che il mondo è cattivo, non è vero che non c'è più speranza, non è vero che si possono ancora fare delle belle cose, e soprattutto non pensiate che l'Europa sia così lontana. Come giustamente ha detto Angiolo, l'Europa è ovunque, noi siamo cittadini europei, prima che cittadini francesi, spagnoli e tedeschi. Pensate, io direi proprio ribaltiamo la cosa, siamo prima di tutto cittadini europei, poi siamo anche italiani, tedeschi, spagnoli, francesi, lettoni, eccetera, lombardi, veneti, siciliani, napoletani, vero Paola? Sì, è vero. Ecco, perché Paola viene da Napoli, Paola c'ha la passione nel sangue. E quindi, cari amici radioascoltatori, la poesia, noi crediamo nella poesia, questa forza scatenante della parola. Avete ascoltato Adele, avete ascoltato Stefano, due personaggi. Questa sera, insomma, abbiamo due persone di spessore, ci dispiace per Paolo perché potevamo aggiungere anche lui, ma sarà per la prossima volta. Quindi la poesia noi ci crediamo e la mandiamo un po' come quasi cura dell'anima, modo per esprimere i propri sentimenti, le emozioni, per far capire che esistiamo, che ci siamo. Sappiamo anche che comunque siamo in Europa, e quindi la democrazia, per mal che funzioni, esiste, e dobbiamo ringraziare chi si è battuto e chi ha perso la vita. Pensiamo per esempio a quelle persone che sono venute prima di noi qui in Belgio, dalle nostre connazionali, che hanno perso la vita, che hanno lavorato in condizioni allucinanti, ma che comunque grazie a loro la comunità italiana è ben radicata. Quindi crediamoci in questa democrazia e cominciamo a crederci nel nostro piccolo cuoricino, perché dal piccolo si fanno poi le cose grandi, quindi dalle gocce si arriva poi all'oceano, e quindi l'oceano è formato da tante piccole goccioline. Quindi che dirvi, riflettete in questi giorni, ascoltate la nostra radio, vi verrà proposto comunque sempre il messaggio elettorale, e fateci sapere anche quello che così che pensate, quello che ricevete dalla radio, perché tutti noi qua puntualmente ogni sera, chi è il martedì, chi è il mercoledì, chi è il giovedì, chi è il venerdì, come la Della Sonora, veniamo e dedichiamo il nostro tempo anche a voi, e speriamo che voi ne traiate così una certa emozione. Quindi scriveteci. Direi che il tempo ormai è andato, non c'è posto per un'altra canzone. Ringraziamo Paola, vuoi ricordare il gruppo? Perché io dico sempre Lucio Pacifico, ma in effetti la band ha un nome, giusto? Sì, si chiama Gruppo E3. Benissimo, quindi ringraziamo loro, ringraziamo Cristiano con il suo Fortunato, perché siamo tutti noi fortunati di essere qua, di essere a Radio Alma, di avere lo spazio dedicato alla poesia, di avere amici. Vi saluto, un bacio, Angiolo, grazie Paola, a venerdì prossimo. Grazie.